C'est passé un mois de mai. J'avais une semaine de congé. Forse mi sono spiegato male. Non sono venuto qui a dirti che forse la tua libertà è in pericolo. No, amico. Io sono qui per dirti che tu non sei libero per un cazzo. È inutile che salti dalla sedia e che ti dimeni come un'anguilla per convincere te stesso che non è così, che io ho torto e che tu puoi riprendere in mano la tua vita come e quando ti pare. È inutile, perché sai che ho ragione. Quando ti alzi al mattino non sei libero. Quando vai al cesso non sei libero. Quando fai colazione non sei libero. Neanche in mezzo al traffico sei libero. Pure dentro ad una schifosissima metropolitana che sa di piscio e sudore. Al lavoro poi il tuo status si avvicina di molto a quello di uno schiavo. Perché, dimmi, pensi davvero di essere trattato per ciò che sei? Per ciò che vali? I diritti? Ma non farmi ridere. Lo vedi che ormai ragioni come loro. Ti hanno fottuto il cervello. Sei schiavo della loro ideologia, prima che del loro potere d'acquisto. Su, forza, usa quella tua piccola rinsecchita porzione di cervello che ti è rimasta per ragionare con me. Cos'è un contratto di lavoro? È un contratto fra due parti in cui uno stabilisce quanto lavoro offrire e l'altro stabilisce quanto denaro sborsare. Solo che tu non sei nessuno dei due, perché altri hanno fatto il contratto per te. Tu prendi solo il pacchetto già completo e già confezionato e mandi giù. Metti le tue firme, felice di esserti fatto castrare. Quanto vale il tuo sudore? Le tue ore di macchina o di treno che fai per andare e tornare dal lavoro? Le tue incazzature coi colleghi stronzi e cafoni? I tuoi pranzi freddi? La tua ulcera? Quanto vale? Vedi che non lo sai, perché in quel contratto tutto questo non ha valore, perché non viene neanche preso in considerazione. Allora vedi che non sei libero. Pensi di poter dire di no a chi ti pare, senza subirne le conseguenze? No, amico, sei proprio incastrato, te lo dico io. Allora che hai deciso di fare, eh? Ti butti sul divano, prendi il telecomando e ti fai ipnotizzare come un coglione dalla televisione. Sotto ipnosi non senti più quel piccolo dolore. È la tua anima che urla. Urla dannatamente perché vuole uscire dalla gabbia. E allora, che aspetti? Falla uscire una buona volta. Nel tuo piccolo paesino c'è qualcosa che non va. E allora domani alzati e vallo a dire a qualcuno. Stampa volantini, crea incontri. Urla quello che pensi. I parenti ti stanno stretti, gli amici non ti assomigliano più. E dillo. Apri il rubinetto e vomita tutta la tua rabbia. Oh! Allora sì che potrei dire di essere libero, ma tu hai paura di restare solo, non è così? E allora devi scegliere, amico, perché il bivio è uno solo e non hai molte vie di fuga. Continua a vivere in compagnia di altri schiavi come te e passi sulla terra come un fantasma, oppure alzi quella cazzo di testa, perché, fratello, solo così su questa terra lascerai il tuo indelebile marchio. j'ai envie. Mon jardin, oh mon jardin est un vaste cratère. Ça c'est le blues, le blues des espaces verts. Abbiamo ascoltato la bellissima Ver Blues dei Crepul Blues. Ed eccoci qui, popolo della notte, in questa nuova puntata di Radio Rock di Notte. Prima di continuare in questo nostro cammino dai confini incerti, vi ricordo che l'intera colonna sonora della puntata è stata scaricata gratuitamente e legalmente dal sito www.giamendo.com, grazie al quale potrete scaricare e trasmettere brani liberi dai diritti SIAE. Anche le puntate di Radio Raw, Radio Raw di Notte e del TG Raw si possono scaricare gratuitamente, ma essendo sotto licenza Creative Commons vi preghiamo di evitarne l'utilizzo a scopi commerciali. Fatta questa dovuta premessa, possiamo addentrarci nella tematica principale di questa puntata, cioè la libertà. La libertà di essere noi stessi, di esprimerci, di vestirci, di frequentare chiunque ci vada a genio. Insomma, io parlo della libertà di aderire a tutte le iniziative che vuoi, di fare quello che vuoi senza sentirti dire: ehi, ma a te cosa ti frega delle balene uccise dai giapponesi? Ma che domanda idiota. Ma perché? Per essere contro la caccia devo per forza essere parente di una balena o di un fagiano? Per sostenere i diritti delle donne devo forse io stesso essere una donna? Libertà vuol dire avere il diritto di essere se stessi sempre e davanti a chiunque. Ma vi siete mai chiesti perché al ristorante parlano tutti piano e ci sono i genitori che sgridano i bambini? I bambini. Una volta ero in spiaggia, stavo guardando con molta attenzione una madre che continuava a riprendere il figlio perché giocava col secchiello e con la sabbia insieme ad un bambino di 4-5 anni. A un certo punto i due bambini si sono scambiati i giochi perché loro non sono come noi, non danno il peso che noi diamo agli oggetti. Beh, si sono scambiati la paletta, le formine, e la madre di uno dei due è intervenuta urlando davanti a tutti: ma cosa fai? Ridai subito! Il tuo giocattolo al tuo amico non si fa, non puoi. E questo bambino ha guardato la mamma con un'espressione tristissima. Ecco, è a quell'età che si comincia a non essere liberi. Abbiamo ascoltato By Blues dall'album North Shore Blues di Nicolas LaRouche. Ho sognato un locale dove ballavano insieme coccodrilli e gazzelle. Ballavano, si divertivano e non avevano pregiudizi. Poi mi sono svegliato in questo mondo di merda dove i coccodrilli ballano solo con i coccodrilli e le gazzelle si sentono a loro agio solo in mezzo ad altre gazzelle. Abbiamo ascoltato I Never Seen It Before You, tutto attaccato, dall'album Baby B Anti-Blues, yeah, di Pasqualino Fierica. È incredibile cosa accade quando, ad alcune persone, quando tassi l'argomento libertà, sgranano gli occhi, ridono, si imbarazzano, generalmente ti danno del sognatore. Ecco, io questa cosa ancora faccio fatica a capirla. Tu parli di libertà elementari, libertà di essere ciò che sono, libertà di stare male. Ecco, per esempio sul posto di lavoro, ormai quando stai male e devi stare a casa perché hai un'influenza oppure hai fatto un incidente, ti senti in colpa perché non hai più la libertà di restare a casa, chiaramente motivato, senza rischiare di perdere quel posto di lavoro. Ecco, quando tu dici queste cose ad alcune persone è come se tu smuovi un sottofondo, una base della loro anima, la base che si è incrostata, e non è che loro in realtà non sappiano di cosa si sta parlando, loro lo sanno, è come se lo sanno. Il problema è proprio questo: loro hanno scelto, hanno deciso, o comunque si sono trovati a una certa età ad aver messo totalmente da parte il concetto di libertà personale, la libertà che ti potrebbe permettere di scrivere degli articoli, di aprire un semplicissimo blog gratuito come faccio io ne ho 3-4, non so più quanto sto scrivendo. Puoi pubblicare dei video su YouTube dove parli e dici quello che pensi, o dai delle notizie, o insomma te ne prendi la responsabilità, ma liberamente. Tempo fa un ragazzo che ho conosciuto, dopo aver visto diversi video che io ho pubblicato su YouTube, video di informazione critica, mi ha scritto che la mia è una grandissima arroganza, ovvero quella di tirar fuori degli argomenti senza avere delle basi culturali, secondo lui, adeguate. Quello che io gli ho risposto è stato: a prescindere dal fatto che mi informo prima di dire una cosa, e quindi comunque le basi culturali di cui lui parlava c'erano, ma a prescindere da questo, in ogni caso, chi potrebbe impedirmi di girare un video in cui parlo e dico quello che mi pare e pubblicarlo su internet? Vedete, nessuno ve lo impedisce, eppure quanti di noi lo fanno? Certo, c'è di mezzo anche un discorso di timidezza. Ovviamente non tutti sono propensi a mettersi davanti a uno schermo, davanti a una webcam, dire delle cose, però si può sempre scrivere. E se proprio uno fa fatica a scrivere dando anche il suo nome e cognome, può sempre scrivere in modo del tutto anonimo. Eppure quanti lo fanno? Ecco, il discorso è proprio questo. Noi abbiamo alcune libertà, ma non ce le prendiamo. Thank you. piccola parabola della mucca omofoba. Sei diversa, disse la mucca alla pecora. La pecora rispose: beh. La mucca si risentì e disse urlando: hai capito? Sei diversa da me. La pecora rispose: beh. A quel punto la mucca urlò per i campi, scrisse articoli, fece manifestazioni per sottolineare la diversità della pecora. La pecora non rispose, ma guardando la mucca pensò: io sarò diversa da te, ma tu sei una gran rompipalle. Eccoci di nuovo qui, Anime Erranti. Il brano che abbiamo ascoltato prima era Plastic Love di Mauro Gaspa, tratto dal suo album Blue Natural. Per questa notte io ho finito di tormentare le vostre povere orecchie e di stropicciare le vostre emozioni. Quindi credo che sia giunto il momento di salutarci. Ricordatevi, la nostra libertà è il bene più prezioso che abbiamo. E se qualcuno l'ha uccisa, beh, credo che sia il momento di fare vendetta. Remember, remember, the 5th of November, gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot.